guardo il mondo. Con gli occhi tuoi non mi perdo, nella tua mente trovo il cielo, nelle tue braccia il perdono dell'umanità. Sei il buon pastore di chi piangerà. Sei il buon pastore per la città. Sei il buon pastore, sei verità. Sei il buon pastore nel valle oscuro, e tu mi conduci, confondi i passi dei miei nemici. Fonte di fede e carità, la tua parola guida i miei passi, libertà. Con gli occhi tuoi guardo il mondo, con gli occhi tuoi non mi perdo, nella tua mente trovo il cielo, nelle tue braccia il perdono dell'umanità. Sei il buon pastore di chi piangerà. Sei il buon pastore per la città. Sei il buon pastore, sei verità. Sei il buon pastore nel valle oscuro, e tu mi conduci, confondi i passi dei miei nemici. Parola è fonte di fede e carità, la tua parola guida i miei passi in lì.